andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Grazie Roberto D'Agostino, grazie a cazzo. È stato chiarissimo. Grazie a cazzo. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Sono andato a ripescare, caro Parenzo, questa perla del professore esimio massimo profeta nostro Vittorio Sgarbi sugli omosessuali, che secondo lui non sono una categoria, roba inedita. La società è rappresentata da diverse categorie, gli omosessuali, come se gli omosessuali fossero una categoria. Gli omosessuali non sono farmacisti, notai, avvocati, quelle sono categorie. L'omosessuale è uno che lo prende nel culo per conto suo, saranno cazzi suoi. Professore. Beh, dal punto di vista tecnico forse sì. Non è una categoria, no. Ragazzi, cominciamo a incazzarci subito, vi faccio subito salire la bile. Adesso parleremo della vicenda, di una nuova vicenda incredibile, di un signore che viene accusato addirittura di omicidio volontario perché ha ammazzato un ladro in casa sua, Vaprio Dadda, qui vicino a Milano. Bisogna fare una grande battaglia della Zanzara. Nessuna battaglia. Sì, una grande battaglia. La giustizia chiarisca quello che è accaduto. Questa è banale. Nessuna battaglia da fare contro nessuno. Sì, no, contro nessuno. Una battaglia a favore di questi signori, certo. A favore dei ladri. No, a favore dei signori che sparano. No, perché un assassino questo qua, secondo te? È un assassino? Non so se questo lo è. Che chi uccide è tecnicamente un assassino. Poi dopo ci possono essere mille ragioni del perché uno lo fa, ma la parola ha una sua, no? Ah, è un assassino, benissimo, è un assassino. No, ma non lui. Allora, aspetta. Lo accerterà la magistratura. Vabbè, ma questo è banale. Questo è normale, scontato, certo, lo accerta la magistratura. Che sei coso? Che sei un politico? Che bisogna dire? No, è una prendere parte, decidere. E come fai a decidere senza sapere come sono andate le cose? No, ma questo è abbastanza chiaro. Dici a prescindere, io sto con quello. No, sono entrati. Io, quando uno entra dentro casa, può fare tutto. Tu sei autorizzato a fare tutto. Oggi la legge non dice questo, però. E questa è la mia regola. Questa è la tua, ma è la mia regola. Viviamo in un altro paese, però. Allora, Vendola, prima di affrontare la questione dei morti in casa, ammazzati, i ladri ammazzati in casa, Vendola sul vitalizio, incazzatevi un po'. Vendola e il vitalizio, lo ha cambiato per gli altri, il suo è rimasto intatto, una piccola sforbiciatina, bisogna dire, piccola sforbiciatina. Ma lei lo vorrebbe rifiutare oppure no? Io quello che ho diciamo come mio diritto lo esercito, tutto qua. Perché il fatto che lei dice che sia giusto avere i vitalizi e però li ha cancellati per altri, non è una mossa un po' paracula? Sì, no, non è una mossa paracula. Era il signor Giarrusso delle Iene che è andato a rompere i coglioni giustamente a Vendola. E non è una mossa paracula, no, non è una mossa paracula. Abolito per altri, quelli che venivano dopo, invece per tutti quelli che venivano prima, tra cui lo stesso Vendola, mantenuto. Poi questa cosa è il diritto acquisito, io divento pazzo per i diritti acquisiti. Il diritto acquisito, ma il diritto acquisito di che? Di cosa? Anche quelli che sono licenziati in teoria hanno un diritto acquisito, no? Potrebbero dire io ho un diritto acquisito, c'avevo un posto. Io non ho cancellati miei perché sono entrato con queste regole del gioco dentro le istituzioni, non ho fatto altri mestieri, sapevo che quelle erano le regole. Se prima ci fossero state altre regole mi sarei comportato differente. Se lei avesse potuto cancellare anche il suo diritto del vitalizio, avrebbe fatto? Come ha fatto per quelli che venivano dopo? Non avrebbe avuto significato, perché i vitalizi pagano quelli che si chiamano diritti acquisiti. legittima difesa, gli spari in casa, è successo a proprio Dadda, un signore, rom, credo, romeno, non so che cosa, un ragazzo di 28 anni, un giovanissimo ladro, di 28 anni. Un potenziale ladro, matricolato. Un ladro. È entrato dentro casa, il signore ha reagito, un anziano di 65 anni in casa con figlio, cognata e credo qualche altra persona, solo figlio e cognata se non sbaglio, e forse il figlio del nipote, non lo so, comunque c'era un po' di gente in casa, ha sparato, ha visto una luce, questo morto stecchito, questo è successo, e poi ovviamente i dettagli li conosceremo più avanti. Questo signore viene accusato di omicidio volontario. Siamo andati a rompere i coglioni a casa di questi signori che hanno avuto un problema, certamente, cioè c'è un morto, però Sicignano si chiamano, Sicignano Paprio Dadda. Pronto? Sì, casa Sicignano? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve, sono Cruciani. Sì, guardi, non vogliamo rilasciare nessuna intervista. No, le dico subito che mi dispiace moltissimo di quello che è successo. Sono, veramente dalla parte di chi è suo padre? Mio suocero. Suo suocero, eccetera. Sì. So perché è stato anche accusato di omicidio volontario addirittura, o sbaglio? Sì, cose dette proprio penso così, proprio senza senso. Perché senza senso, dice lei? Perché uno in casa sua si deve difendere. Cioè, per cui ha fatto bene secondo lei a sparare, certo. C'è qualcuno che può parlare? No, guardi, nessuno. Ma quanti furti aveva subito fino adesso? Un po' di volte, guardi, adesso devo, puoi salutarla che mi suona il telefono. No, certo, volevo sapere quanti furti, perché questo è importante, no? È già la quinta volta praticamente. Ma lei vive in casa, vive nella stessa casa? Sì. Cioè, è una cosa... Arrivederci. Per la quinta volta entrano in casa, il signore di 65 anni spara, ammazza uno e gli rompono i coglioni, perché questa è la realtà, cioè gli vanno a rompere i coglioni, adesso passerà un inferno, a quanti metri era? Si poteva evitare, di notte nel buio, ha fatto bene, ha sai fatto com'è. Male, poteva sai aspettare. Com'è. Lo poteva... stato di diritto funziona sì, così, sai funziona com'è. Così, per carità. Mi dà fastidio, però... lo so, per carità. No, ma non è questo. Nella tutto... Repubblica vostra. Mi sembra tutto abbastanza chiaro in questo caso. Ognuno fa quello che gli pare. Omicidio volontario, cioè entra uno a casa tua e uno viene accusato di omicidio volontario perché gli spari, uno entra a casa tua per rubare, tu spari perché hai intanto la procura, il porto d'armi. Intanto la procura ha spiegato che gli hanno contestato questo addebito per poter svolgere meglio alcune indagini e rilievi. Intanto è accusato di omicidio e volontario. Quindi lo hanno fatto anche a tutela della persona indagata, se hai letto bene la storia, perché sennò poi la gente che ascolta, sì, la maggior parte capisce, c'è un 2% di idioti che vengono sobillati da questa tua follia. Che follia, cose normali. E l'informazione non è completa, quindi se Salvini, tu vai a vedere Salvini, ovviamente subito in carrozza, è morto e non mi dispiace che sia morto. Se questo era lì per rubare ed è morto, non mi spiace. Sono cattivo? Basta adesso con sto buonismo, con la gente che ti entra in casa, li facciamo arrivare, li mettiamo in albergo. Se me lo trovo in camera, ragazzi, cosa devo stargli a valuto? Scusi, lei, signor rapinatore, mi può cortesemente dire se la pistola è vera, se la pistola è finta, se il suo coltello è affilato, è lungo e corto? Oh, ragazzi. Albettone, provincia di Vicenza, uno dei nostri sindaci preferiti, caro Parenzo, non il tuo. Gio Formaggio, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Come andiamo? So che ha passato dei guai l'ultima volta che è venuto qua la Zanzara, che è successo? No. Il questore voleva togliermi il porto d'armi, ma fortunatamente me l'hanno lasciato. Oh. E quindi se il ladro mi viene in casa fa la fine di quello lì di Milano. Sì, sicuro, spari subito. Sicurissimo. Spari subito. Ma scusa, non ho capito, dove lo tieni? Non credo che tu esattamente tieni sotto il cuscino il fucile o la pistola. Innanzitutto, no, quante armi hai in casa? È a mezzo metro dal letto. Metro dal letto. Intanto, tecnicamente non si potrebbe neanche, ma insomma poco in che male. Senso non si potrebbe? Che va messa nelle norme di pubblica sicurezza, impongono che le armi, non credo. Se cariche, caro. Va, studiatevi. Tu dove la tieni, Formaggio? Lui sta commettendo... Vicino al letto i proiettili sono sopra il comodino. Lui non può, tecnicamente non può farlo. Studiatele almeno le cose basi. Neanche il ladro tecnicamente può venire a casa mia. Lei quindi... sa che in base al testo di pubblica sicurezza ma siete veramente un bravo. Le armi non le puoi tenere così a disposizione. Ma quello ci si pulisce il culo col testo di pubblica sicurezza. Abbi pazienza. Ma se uno deve difendere la casa, i propri cari, il figlio, la moglie, il nipote, la suocera, anche se la vorresti stronzare qualche volta la suocera. Le armi si tiene sul comodino. No, scusa, devo andare sopra, apri la cassaporta. Intanto t'hanno fatto fuori. Ma non lo può tenere intanto sul comodino le armi. Dai, cambiate su. Le norme allora. Ma sei veramente patetico. Veramente io le voglio cambiare le norme. Ma cosa non si fa per sobillare due ascoltatori o due elettori? Ma cosa cazzo non c'entra? Si può, almeno di quello che... Ma io dico quello che penso. Ma almeno spieghiamo come stanno le cose. Ma che spieghiamo? A spiegare vai a Porta a Porta e non rompere i coglioni. Aspetta che c'è il traffico. A Porta a Porta, spiegazione, il testo di pubblica sicurezza. Uno se si deve difendere. Bene, ed è in una zona infestata da ladri. Le armi si possono tenere sul comodino. Che cosa tieni sul comodino? Date informazioni sbagliate. Aspetta Formaggio. Aspetta il Formaggio che arriva. I proiettili sul comodino, giusto? Sveglia e proiettili. Sveglia e proiettili, d'accordo. La pistola o il fucile dove? A mezzo metro. A mezzo metro il fucile messo proprio accanto alla parete? Vicino dove finisce il letto c'è il fucile appoggiato. Pensa che casa... Che casa normale, gente che si vuole difendere. È una casa bellissima. Arriva un nipotino e prende scambia per supposta la pallottola e pensa che è divertimento. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Da un signore di 65 anni ha ammazzato un ladro di 28, lo accusano di omicidio volontario. Ad Albettone, provincia di Vicenza, Gio Formaggio sostiene che lui se ne fotte delle regole. Obbligo di custodia, misure cautelari. Sì. Il nuovo quinto comma dell'articolo 38 impone al detentore l'obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell'arma e lui invece la mette là. Offra adeguate garanzie di sicurezza. Ma se uno arriva il ladro, che cosa permane fai? La facoltà, ma basta stupidare. Permane la facoltà. Meglio un bel processo che un brutto funerale. Ti toglierà, dopo quello che lei sta dicendo, le toglieranno il porto d'armi, ovviamente, perché violando una norma per la detenzione delle armi. Aspetta, fammi sentire sta cosa. Scusa, non ho capito. Cioè, anche se ti tolgono il porto d'armi, che cazzo te ne frega? Ci sono i tuoi fratelli. Ma non me ne frega, ho i miei fratelli che abitano lì vicino nelle vigliette a schiera, sono tutti armati e questi sparano, no? Quindi che possono pure togliermi il porto d'armi a me, però nessuno viene in casa mia. Ma che roba è Fort Knox? Rompere le palle. Scusami, Joe, ma sta violando una norma. L'altro giorno, detenzione di armi. Sta violando una norma. Bellissimo. Tante norme. Tu anche tu violi tante norme durante il giorno, manco lo sai magari. Ma è un po' diverso. L'altro giorno ti ho visto con un cartello a una manifestazione a casa mia che c'era scritto lì a casa mia. No, nella a casa mia io sono Dio, era un manifestante, quando abbiamo fatto la manifestazione per Stacchio, sì. Quello era uno dei più bei cartelli che ho visto, no? A casa mia io sono Dio. A casa mia io sono Dio, facciamo una maglietta, Parenzo, a casa mia io sono Dio. Quanti figli hai tu a casa? Tre. Tre figli piccoli, ovviamente se si presentasse, inutile che te lo chiedo, no? Se si presenta davanti un signore armato di torcia, pistola o non pistola in mano, che succede? Barcala cerca di entrare con un piede di porco, non so, con qualcosa dentro la cosa. No, ma ti dico qualcosa di più, siccome abito al primo piano, no? E quindi deve arrampicarsi per la terrazza, gli sparo in testa e si trova le cervella dentro le scarpe a ginnastica. Questo è il sindaco. Io credo che questore con tre bambini piccoli, aspetta, una moglie. Dimmi cosa viene a fare uno alle 3 del mattino a casa mia. Sì, no, evidentemente non viene a portarti, come dire, non viene a portarti dei regali. Benissimo. Dei doni, dei presenti. E allora, ascolta, negli Stati Uniti gli avevo dato una medaglia a questo qua, invece lo indaghiamo, lo processiamo, nessuna, gli facciamo medaglia. Spendere una montagna di soldi. Hai visto Mattielli, no? Sì, sì, come no? L'abbiamo intervistato l'altro giorno, certo. Bravissimo. Allora, sto qua deve pagare per cosa? Dopo l'ennesimo furto, sti zingari del cazzo vengono lì, ti portano via le cose in casa e non devi fargli niente. Sì, hanno detto, i giudici hanno detto che ha un tantinello esagerato nella reazione, cioè avrebbe duplice tentato omicidio nei confronti di due rom, i quali hanno avuto dei danni permanenti. Ma bisogna cominciare a istruirli sti qua, e l'unica legge che capiscono sono le pistolettate che uno gli tira dietro, perché non capiscono nient'altro. Quindi continuiamo. Che ci siano casi così, sì, perché sì. Più casi così la delinquenza. Sì, più casi cosa così facciamo, c'è. Con le leggi cosa? Ti prendono, il giorno dopo ti lasciano, ti danno da mangiare, ti dicono guarda, sei stato un po' cattivo, vai fuori, continua a delinquere. Sì, dicono che Mattielli ha sparato a questi qua, questi due ladri nel Capannone, una roba successa anni fa ormai. Poi ha continuato a sparare dicendo bastardi vi ammazzo. Ha fatto bene. Cosa sono andati a fare? Dopo la quinta volta, sesta, che ti portano via il tuo lavoro, no? Sì. Che non hai neanche più la dignità e non hai più neanche i soldi per tenere aperto la tua attività. Sì. Di qua continuano indisturbati ad andare a rubare. Sì. Ha fatto bene a sparargli. Io ho preparato un assegno, sì, e ce l'ho in tasca. Ho preparato un assegno da 2.000 euro dal fondo di solidarietà che abbiamo fatto per le vittime, sì, dell'ingiustizia, e entro fine settimana lo porterò a Mattielli e ne preparo un altro per il signore di Milano. E ma questo magari ha i soldi, magari ha i soldi questo qua, questo di Milano, vediamo, perché Mattielli mi sembra messo prima, male. È giusto che la gente si mobiliti ad aiutare queste persone, perché sennò la prendiamo sempre in culo. No, la notizia è questa: tu praticamente consegnerai nei prossimi giorni un assegno di 2.000 euro a Hermes Mattielli? Com'è? Sì, entro fine settimana, adesso sto aspettando di trovarlo. Soldi del comune, penso. Sì. Venerdì mattina comunque. Saranno contenti i suoi concittadini? No, che soldi del comune? No, non sono soldi del comune. Ma quali soldi del comune? Sono soldi che abbiamo preso con le magliette fondo di Stacchio. Di solidarietà che ha no, come fatto? No, è un fondo per Stacchio, un fondo di una parte. È un fondo che abbiamo fatto. E invito Parenzo a comprarsi quella maglietta lì, di non compro, 10 euro per una non giusta compro causa. Per 10 euro li spendo per giuste cause molto volentieri, ma sicuramente non per queste propagande. Devi comprarti la maglietta di Stacchio, dovresti non mettere compro anche nessuna te. Maglietta di Stacchio. Però scusami Gio, io voglio capire una cosa, ma se uno entra dentro casa tua, tu gli spari e sta per terra, quello sta per terra, che fai tu? Insisti, lo finisci, ma che no, fai? Quello no, ma però allora è facile accusare Mattielli che ha fatto un'esagerazione. Però mettiamo lo stato d'animo, no? Perché adesso qua assolviamo anche la gente per lo stato d'animo, quindi assolviamo anche Mattielli per lo stato d'animo. Era confuso, poverino, quando sono andati a rubare era l'ennesima volta, non aveva più soldi, eccetera, quindi ha fatto un po' un eccesso, ma non è che lo colpiva. Ha fatto un po' un eccesso. No, ma eccesso, magari avrà sparato qualche colpo in più, ma è normale quando uno è in questa situazione. Ma ascolta, sono andati a casa sua, nel suo capannone, gli stavano portando via la roba. Sì. Vedrai che a Gio Formaggio non spara nessuno, perché io di notte resto a letto, chiudo il mio bel ristorante e vado a letto, finito di lavorare. Però scusami, se uno dovesse ragionare così, ognuno di noi dovrebbe avere un'arma in casa, saremmo tutti più sicuri, dici te, con un'arma in casa? Ma non è, allora, non è che uno deve per forza tenere un'arma in casa, però questi messaggi che arrivano, no? Ogni tanto un morto ci sta bene, perché devono imparare che non è che la fanno sempre franca. Ah no, ma questo ho capito, il messaggio è ogni tanto un morto va bene. Ogni tanto un morto ci sta bene, perché devono imparare che quando loro stanno lavorando, no? Quando vanno a rubare, come quel bastardo che è morto nel ponte lì da Stacchio, lui stava andando a lavorare. Sì. E come un muratore cade dal tetto, non viene schiacciato. Tu ci puoi rimanere secco, dai. Ma non faccia paragoni vergognosi rispetto ai morti, alle morti bianche sul lavoro. Ma non faccia. Ma è uguale. Siete di un cinismo sfrenato. Sta lavorando, è il suo lavoro. Ma non paragoni i morti con i ladri. Basta ipocrisia, è uguale. Ma vergognatevi, speriamo che vi lincino per queste cose che dite. Che proteggi i delinquenti. Ma che schifo, allora, che paragonate allora i morti qua, sul lavoro, nei cantieri. Ma che c'entra? Noi morti non è che fanno. Mi fate vomitare, tutte e due, vomitare. Siete vomitevoli, ma che schifo. Ma è la stessa cosa. Ma è la stessa cosa, ragazzi, su. Ma che schifo. I lavori sono diversi, ma è la stessa cosa. Ma non si può neanche chiamare lavoro, ma che schifo. Chi non è un lavoro, perché essere ladri non è un lavoro. È un lavoro essere ladri. Certo, è un lavoro qualunque, è un lavoro come un altro. Ma è un lavoro criminale, ma perché loro lo intendono un lavoro come un altro, è quello che mi fa incazzare. Perché nessuno, sono più tutelati di chi lavora onestamente. Senti, ma i criminali, le famiglie dei criminali di Napoli che, questo sta morendo, le famiglie dei criminali di Napoli che appoggiano i loro, che appoggiano quelli morti, no? E vogliono vendicarsi, come li giudichi te? Le famiglie di Napoli che appoggiano quelli morti, in che senso? Sì, non sai un cazzo, vabbè, cioè le famiglie non, di... non sai niente, che te frega a te di Napoli, eccetera. Ci sentiamo dopo, dai, giornale radio, ciao. È giusto che la gente si mobiliti ad aiutare queste persone, perché sennò la prendiamo sempre in culo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Io so quello che va a prostitute una volta a settimana, ti ricordi? Ti avevo chiamato un po' di giorni fa. E allora sono stato su una di queste case dove vado spesso, perché di solito ci stanno sempre belle fighe. E mi apre una bella mora che mi dice che è venezuelana. Entro, questa qua comincia a spogliarsi, si tira giù il reggiseno, c'ha due belle sinne cruciate che si sfila la gonna. Però aspetta, perché poi si gira e crucia, guarda, te lo giuro sui figli mia, c'aveva un pacco postale da fa invidia, guarda, mi faceva invidia pure a me. E gli ho detto, mi sono sbagliato, e mi giro e me ne vado. Allora mi sento che questa qua mi pigliava in braccio, e che fa questa? Mi tira giù i calzoni e crucia, te lo giuro, mi comincia a fare un sesso orale che io te giuro non l'ho mai provato in vita mia. Guarda, questo me devi credere, cioè mi stava a sucare pure il midollo. Devi sapere che sono quegli stronzi in regia che fanno questi scherzetti, capito? Cioè, non è una mia decisione, non me ne frega niente. Giuro, ma non è per, come dire, per rendere conto a qualcuno, per giustificarmi. No, mamma, non ho mangiato io la marmellata. Ho apprezzato tantissimo, ma ti assicuro che non è opera mia, sono quegli stronzi dietro il vetro che con l'intento perfido di farmi cacciare o di provare a farmi cacciare, che poi quando si divertono, come ci siamo divertiti in questi anni, altro che mento in onda, in orari, come dire, alle 19:20, ma tanto che ce frega. Beh, tra le 19:20 e le 20:15, che differenza c'è? Diciamo la verità, non c'è alcuna differenza, nessuna. Beh, nessuna. Un po', sì. No, l'unico motivo per cui mandarlo prima, mandare queste cose prima, è che in realtà Squinzi si collega alle 20:15, no? Esatto. Questo è l'unico motivo. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Ho capito, ma io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. Allora ragazzi, grandi novità da Prato! Grandi novità da Prato, come ha scoperto Striscia Notizie in un bellissimo servizio che ho potuto vedere, finalmente si dà qualche gioia agli anziani di Prato. Gli anziani di Prato che hanno trovato nel mercato cinese della prostituzione la loro valvola di sfogo. In realtà i cinesi servono, e come se servono? Servono a far abbassare il prezzo delle prestazioni, forse in condizioni igieniche tutte da valutare naturalmente, abbassare il prezzo delle prestazioni fino addirittura a 20 euro, cioè 20 euro ragazzi, e gli anziani godono in tutti i sensi, sia per il prezzo che poi per le prestazioni, credo. Sentiamoli, gli anziani di Prato. Con 20 euro siamo a posto. Se hanno fame, anche 5 euro. Fanno servizio completo, capito? Quando uno è lì sul lettino, poi sai. Fanno di... è un servizio per gli anziani, giusto? E te hai provato? Sì, era con la curiosità. Sì, una volta. Sì. E quanto hai speso? 20. 20 euro, ma per servizio completo? No, forfettario. Servizio speciale doppio servizio. Due ragazze con un uomo. Chelsea, I believe the way time slowly. ad alti livelli qua, Abbassano pure i prezzi delle prestazioni sessuali cinesi, eh? Non solo la manodopera costa poco lì in Cina, da quelle parti, rispetto a quanto può costare qui in Europa, ma quando stanno qui abbassano pure i prezzi del sesso. Vai, ascoltatori, 800240024, dove andiamo? Vincenzo, provincia di Roma, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera, una considerazione, ma secondo lei, è giornalismo quello che fa lei? Giornalismo, che parola grossa, no, amico mio, no, ma che ne so io? Ma questo è uno show radiofonico, amico mio. Ma uno show radiofonico, voi siete la vergogna del giornalismo, perché non si possono fare le trasmissioni a quest'ora inneggiando a gente che spara così alla cieca, ha messo anche il diritto di difendere la proprietà. Inneggiando cosa? Se la prenda con il sindaco di Albettone. Me la prendo con chi l'appoggia, sta gente. No, chi l'appoggia? C'ha avuto un problema a casa stanotte e gli è proprio piovuto addosso uno ancora più grosso. Sì, e allora? E voi che fate? Sì. Tutt'altro. Non è informazione questa. No, è cosa? Dovreste vergognati quello che fate. Ci dovremmo vergognare. Infatti contrario, sì, a questa roba, assolutamente. Che detto. Cosa sei contrario, scusa? Qua hai detto una stupidaggine. No, avanti, spariamo tutti, una stupidaggine. Informazione, no opinione. A parte che io non ho detto questo, ma comunque. Tu hai sostenuto che il diritto di sparare è fare qualunque cosa in casa. Di no, qualunque cosa. Capito? Qualunque cosa in casa, qualunque cosa, sì. In casa, qualunque cosa. Spiegare come fa Confindustria a tenere in piedi una trasmissione così. Questa è vecchia, amico mio, però. È vecchia, questa è roba, attuale. È roba vecchia. Scriva Squinzi, scriva Napoletano. Capito? Che cazzo ci frega? Ma non scrive nessuno. Ci vorrebbe un po' di coscienza proprio della persona che la fa. Ma ho capito, ma se io esprimo le mie idee. Ma lo specchio e chiedersi, ma io che cazzo sto a fare? Le vedi in radio la sera? Che sto a fare? Amico mio, io, ci sarà un motivo. Io mi diverto, sto qui. Dico quello che penso. Dico quello che penso. Sì, e beh, certo. Lei quanto guadagna al mese? Certo che c'è il motivo. Lei quanto guadagna al mese? Io sono pensionato, prendo 1200 euro dopo. Amico mio, io guadagno 10 volte di più, che devo fare della vita? Lei... Non si vergogna di guadagnare in questo modo? Ma non mi vergogno per niente, assolutamente no, no, assolutamente. Mi dica qual è la sua utilità sociale. Utilità sociale. Cazzo fregna coglioni e culo a rotta di collo in un momento in cui alla radio ci fosse chiunque possa finire la radio? Come, scusi? Questa è la tua utilità sociale. L'utilità sociale? O manda non tagli i pezzi sulle mignotte di Prato. Beh, ottimo, lei è andata a Mignotte. Vincenzo, ma è andata a Mignotte lei? Santa, io... Ma è andato a Mignotte lei? Parla con lei, è tempo perso. Ma è andato a Mignotte? Sono problemi miei. Ho capito, ma se entra qua in questa arena, poi si deve sottoporre a un interrogatorio, amico mio. Non è più una arena. Io la sento dall'inizio, sarà missione, ma più passano i giorni e più mi fa schifo. Sì, dall'inizio, bene, la sento, dalla prima puntata. Ma intanto sta qui ad ascoltare, a baccagliare, eccetera. Stasera ho sentito le cazzate che stavate dicendo su quel fatto che è successo a Milano. Voi, quell'altro deficiente del sindaco che dorme col fucile vicino al comodino. E beh, allora... a me fa specie che è sindaco. Vabbè, ma lei ha tutto il diritto. Ha tutto il diritto di attaccare il sindaco. Non di... attaccare nessuno, io non voglio attaccare soltanto, datemi una calmata. Non c'ha bisogno di essere izzata contro. Senti Vincenzo, a me di quello che ha bisogno la gente non me ne può fregare di meno. Noi parliamo, bravo. Perché non dice non me ne frega un cazzo? Non me ne frega un cazzo. Certo, anche se vuole bello, lo dico. Bello. Non me ne frega bello, niente, io sto parlando di cose concrete, come la questione della difesa in casa. È una cosa concretissima. Lei ha detto di essere contrario a quello che sostiene il sindaco. Io sono dalla parte del sindaco di Albettone, lei è sempre dalla parte della gente che istiga a fare cose che non vanno fatte. Ma non lo so, ma non è che la legge è sempre da osservare. Tutto. Lei è contro tutto ciò che porta audience alla sua commissione, che non serve un cazzo. Perché così come anche se quello morire dal casello di Orlando cazzo non porta niente questa trasmissione, porta solo a far bestialire la gente ancora di più. Ti piace Parenzo? Ha ragione, sì. Ti piace Parenzo? Ma tu che cazzo dici? Io sento un sindaco. L'altro dà ragione a questa attacca la trasmissione e questo gli dà ragione. Gli dà ragione, ma vattene a fanculo. Che dice io gli sparerei in testa, gli farei uscire il cervello dalle scarpe della ginnastica. Gli andrebbe tolta la fascia. Ma che tocca a me toglierla? Hai detto che fa benissimo. A lei toccano intervistarla certa gente. Ma io l'ho intervisto, ma è quello che dice questo qua. È questo che dice. Allora dice che anche tu hai sostenuto le sue stesse cose. Io hai detto che va benissimo, che è giusto. giusto che ha ragione. Ho detto che ha ragione. Ma la registrazione è lì. Ma certo, la ho detto che uno che vuole ha ragione. Scusa, io ho detto che quando Formaggio, certo, ma io te lo confermo, quando Formaggio sostiene di voler tenere la pistola o il fucile. Ma Formaggio è un sindaco, non è un cittadino qualunque. Vabbè, ma quello che è un sindaco. Ma lei va benissimo, ma fa benissimo ad attaccare, non c'è dubbio. Io sto dicendo semplicemente una cosa, caro Vincenzo, io ti abbraccio fortissimo e ti voglio bene. Ti voglio bene, che mi vuoi impedire di volerti bene? Mi vuoi impedire di volerti bene? Mi vuoi impedire di volerti bene? Mi vuoi impedire di volerti bene? All'inizio, ma neanche simpatico. All'inizio. Va bene, ma lascia bene, adesso quello è il passato. Pensiamo al presente. Pensiamo. Ti sei proprio degradato. Oh, pensiamo al presente. Pensiamo al presente. Vincenzo, il passato è il passato. Scordiamoci passato. Scordiamoci passato. Allora, Vincenzo, io ho detto una cosa semplice. Il sindaco di Albettone vuole tenere il fucile accanto al comodino con i proiettili. Secondo me fa bene, perché se entra un ladro prima di arrivare là in cassaforte, tirare fuori là, tu sei bello che morto. Ma questo che lui faccia bene, non deve dire una trasmissione radiofonica. Vabbè, ma quello sono cazzi suoi. No, ma quello sono cazzi suoi. Pubblico. Ma quello allora sono affari suoi. Allora faceva bene pure Marazzo che andava a Travestiti. Ma chi? Non ho capito. Marrazzo che andava a Travestiti. Ma dipende. Se lo fa, perché l'hanno fatto dimettere? Ma perché io infatti non sono contrario al fatto che sia andato. Lei è mai andato con un travestito? Non mi faccio questa domanda a me, io c'entro un cazzo adesso. Io sto dicendo, se lei appoggia il sindaco che dorme col fucile vicino al cuscino, sì, e non se ne dimette, appoggiamo anche Marazzo che andava a Travestiti. Perché l'hanno fatto dimettere? Ma che c'entra? Quella è un'altra vicenda più complessa. No, è più complessa. Era andato con la macchina, Ma comunque, guarda, se a me Formaggio si dimette, non me ne può fregare meno, ha capito? Ma perché dimette Formaggio? Aspetta, Vincenzo, fermo lì, ti voglio bene, ti voglio molto bene. Cruciani non offende mai nessuno. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. All'inizio, ma neanche d'estate. All'inizio, quando la trasmissione la sera, mi divertivo. L'ho fatta sentire a tutti gli amici, un po' alla volta, ti sei proprio degradato. Ormai è tutto degradato. Allora ragazzi, mentre l'Italia è con le pezze al culo in tutti i sensi, caro Parenzo, per la situazione economica, eccetera, eccetera, eccetera, comunque sì, molti italiani sono con le pezze al culo, inutile negarlo, no? Non c'è dubbio. Renzi cosa fa? Renzi si permette, non per se stesso naturalmente, ma per la presidenza del Consiglio, un aereo che sarà più grande, rimasto a terra, forse problemi di collaudo, dicono, no? Il jet della presidenza del Consiglio. Un aereo, un super jet, più grande di quello del Papa. Cioè, perfino il Papa non ha un aereo simile. Questo non credo. No, ma è vero, Razzi, è vero. A340, che appartiene alla tipologia dei Boeing 747, un aereo super accessoriato, che è usato anche, per esempio, dal presidente degli Stati Uniti, una sorta di Casa Bianca in volo. Situation room per gestire l'ordine amministrazione, situazioni di crisi. D'altra parte, qualche settimana fa cosa aveva detto? A ottobre andremo in Sud America con un aereo più grande, con il wifi, l'abbiamo già ordinato. Neppure il Papa utilizza un mezzo di questo tipo, perché si accontenta di un A330, il signor Papa, capito? Io veramente non capisco, queste cose non le capisco. Cioè, Renzi dovrebbe essere il primo a utilizzare quella che viene chiamata volgarmente la spending review. Premesso, cioè, che non possono viaggiare sugli aerei di linea per ragioni di sicurezza. Ma Renzi vorrebbe pure, ma chi sono pure Renzi? Cioè, ma chi ragioni, lo vuole? Chi lo minaccia? Non lo può fare. Vabbè, comunque mettiamo che non lo possa fare. Gli aerei mi sembra che loro francamente in dotazione, questo forse è eccessivo. Mi dica francamente eccessivo. Questa roba qua è francamente eccessiva. Forse dai. È eccessivo, però non sarà questo il problema del paese, diciamo, l'aereo. Beh, che porta... è anche un problema, perché è un simbolo. In questo momento è un simbolo. Tu sei molto attento ai simboli, no? Come l'Air Force One. Sei molto attento ai simboli. In questo momento. Come lo è l'Air Force One per il presidente Obama? Sì, ordinare un A340 più grande di quello del Papa è una roba che non si deve fare, tant'è che molti sospettano che non sia arrivato in tempo per motivi di opportunità e non per il collaudo, cioè, attenzione, forse ci ha ripensato Renzone. La cognata di quello che ha sparato al ladro 28enne, eh? Uno in casa sua si deve difendere. Semplice, semplice, lineare, qualche secondo. Uno in casa sua si deve difendere. È andato via quello da Roma che ha chiuso, eh? Vabbè. Cristiano, provincia di Milano, vai. Vai. Pronto, Giuseppe? Dimmi. Sì, ciao. Allora, io volevo esprimere tutta la mia solidarietà al signore siciliano. Sì, dimmi. Appunto per quello che è successo e tutto. L'unica cosa che mi dispiace che tu, dando quella notizia, hai spiattellato subito il cognome, visto quello no, che ma è successo... già, è già diffuso il cognome, cioè, lo scrivo nei siti e tutto, se no non l'avrei fatto, no, amico mio, dai, su. No, no, ok. E invece volevo fare incazzare un po' il Maccabeo di fianco a te. Ma che è Maccabeo? Che vuol dire Maccabeo? Maccabeo, lui lo sa come gli danno, sì, il fariseo e tutto, ma, così si incazza subito. È una citazione, no, non mi incazzo perché tanto sei un poveretto. È una citazione biblica anche abbastanza apparentemente colta. A proposito di cose ebraiche, anzi no, ebraiche, cose di Stato di Israele, leggo qui un interessantissimo articolo su Repubblica, molto interessante, però vada avanti, come si chiami? Cristiano. Cristiano, quindi, vai, dimmi. Niente, per farla arrabbiare volevo dirgli che loro ci insegnano che forse difendersi a casa propria è un diritto. Non sì, è una cosa sì, così. Diciamo, sono situazioni molto diverse. Lì c'è la guerra, eccetera. Il paragone eccetera. Più idiota non l'avevo però, mai sentito. Però attenzione, leggo. Aspetta. Però scusami, no. Oggi leggo pagina 17 di Repubblica. Così ci difendiamo. Gli israeliani in coda per comprare le pistole. Il governo ha alleggerito le misure sul porto d'armi. Nelle armerie le richieste sono quadruplicate. Poi una frase fondamentale presa, credo, da qualcuno che è andato a comprare la pistola, no? Se qualcuno vuole ucciderti, uccidilo prima. Funziona così in tutto il mondo. Beh, che c'è? Sandro da Modena, vai Sandro. Allora, io ti volevo dire una cosa. Dimmi. Una cosa, una voce un po' fuori dal coro, cioè. Nel senso che tutti parlano. Sì, amico mio, però mettiti in una zona dove si prende meglio, se no non sentiamo niente. Ah, adesso ti richiamiamo, dai, Paolo da Padova, vai Paolo. Buonasera, innanzitutto complimenti per il suo giornalismo d'opinione. Vabbè, vai, vai avanti, non ho bisogno di complimenti, non abbiamo bisogno. Innanzitutto dar ragione a quello di Milano che ha ammazzato il ladro che è andato in casa. Sì. Perché l'avrei fatto anch'io. Mm. Sì, ma molti dicono così. Io francamente metto le mani avanti, non prenderò mai una pistola, anche perché non abito in campagna, abito al centro di Milano e forse al centro di Milano non c'è bisogno di avere le pistole. Magari potrei pensare in maniera diversa se abitassi in campagna, in una zona isolata, eccetera, eccetera. Non allora, lo so. Però io abito in campagna. Non mi piacciono le pistole, vicino, punto e basta. Il vicino più vicino è 300 metri. Eh? Alle 3 di notte sono entrati ladri in casa mia, mia moglie ha sentito che si girava la serratura, sì, perché avevano rotto il cilindretto, hanno girato, come ha detto Paolo, i ladri sono sceso giù, se ne prendevo uno gli spaccavo la testa con la mazza da baseball. Sì. Cioè nessuno ha il diritto di entrare in casa mia se io non lo invito. Sì, no, ma questo Paolo, questo è chiaro. Il terrore più grande, il terrore più grande è se fanno del male alla mia famiglia, a qualcuno della mia famiglia. Sì, ma non c'è dubbio. Sì, ma questo siamo tutti d'accordo. Prima, siamo tutti d'accordo. Pertanto, differenza. Come ha detto prima, sì, l'altro per evitare che ti ammazzino, è meglio ammazzarlo prima. La miglior difesa è l'attacco. Sono andato giù come un leone, se ne prendevo uno, l'ammazzavo. E che è successo poi? Niente, sono scappati via. Però mi sembra che i giudici, sì, non riesco a capire se i giudici sono pagati, sì, con le tasse dei contribuenti, sì, o con i proventi della malavita. Con i proventi della malavita, no, perché se vanno, perché favoriscono la malavita, secondo te? Allora vanno ad accusare, sì, ma non succede sempre, una persona onesta di eccesso di legittima difesa. Secondo me sono le leggi. Il signore stava a casa sua, non veniva ammazzato. Sì, ma è quello, se è chiaro. L'altro ladro non andava a rompere i coglioni all'oreficeria, Stacchio non lo ammazzava. No, ma io sono d'accordo con te. Il problema fondamentale è che i giudici applicano le leggi che ci sono, applicano o interpretano le leggi che ci sono. Secondo me in alcuni casi le interpretano male, ma questo dipende dai giudici e dipende dal processo. Non può esistere l'eccesso di legittima difesa. Quando uno no, si ma può anche esistere, ma secondo me, secondo me no, deve esistere l'eccesso di legittima difesa. Deve esistere, secondo me va limitato ad alcuni casi molto specifici. Dentro casa non deve valere. Non ti picchio perché da uomo, non ti graffio perché da donna, ma ti odio. Anche dago di sciaponi, ma forte anche. Cioè, no, però spiega in italiano, con la traduzione di Parenzo, sì. Anche. Che vuol dire? No, adesso questo è... Cioè, non posso dirgli... Dai degli schiaffoni, che vuol dire? Parenzo, traduci, cazzo, sei di Padova. No, ma è abbastanza immediato. Ma non è immediato, ma non è che siamo io sono romano, abito a Milano, tu sei padovano. Ma abiti... è un modo di dire schiaffoni. Ho capito, ma in Sicilia non capiscono. Schiaffoni sono schiaffoni. E quindi l'immagine, qual è la frase esatta? Non c'è, è proprio letterale. Cioè, quando uno si difende, non può dire con le buone... Non ti picchio perché da uomo, non ti graffio perché da donna, ma ti odio. L'ho pesto. Va bene, ho capito. Luciano, provincia di Lucca, dai, ciao. Luciano, provincia di Lucca, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta, ti voglio dire, io da oltre 20 anni, io sì. Ho la stessa età di quello che ha sparato, 75. No, quello 65, ragazzi, quello 65. Ah, ma io non ho 75. Vabbè, 10 di più. Da oltre 20 anni, tutte sì. Le sere apro l'armadio, perché le armi vanno chiuse in appunto. Un armadietto. Appunto. Metto due fucili carichi. Bene. Con palla da cinghiale, una a sinistra e una a destra del letto, e la pistola carica con 6 colpi sotto il guanciale. Tutte le mattine rimetto tutto a posto. Questo lo faccio da oltre 20 anni, e se vengono in casa io prima sparo e poi se ne parla. Non ho problemi a dirlo, a dichiararlo, e poi le conseguenze verranno. Ma tu dove vivi, Luciano? Che si sta accanto, che è sempre contro, sì. Che si stia zitto, io non so nemmeno cosa ci tiene a fare, perché ti butta giù la trasmissione e basta. Vabbè, questo è un parere tuo, lascia perdere. Però Luciano, mestiere fai? Dove vivi? Sempre gli altri. Noi ti sembra normale che in Italia si debba essere così armati in casa? No, ma non è normale, però la criminalità esiste in tutto il mondo. No, nessuno... ma la giustizia difende questi criminali. Io già una volta, per aver dato non difendo nessun criminale, Luciano da Lucca. Ho dovuto pagare i danni. Che è successo? No, spiegami, Luciano, non ho capito, spiegami bene. Allora, io una volta mi sono entrato in casa, sì. Li ho rincorsi, siccome li ho presi fuori di casa, sì. E quindi per l'eccesso famoso, ho dovuto dare i danni perché ho uno troccato un braccio con una mazza da baseball. Beh, Luciano, devo dire che sei il numero uno da questo punto di vista. Cos'è che hai fatto? Cioè, questi sono entrati in casa. Io l'ho rincorsi oltre il giardino, siccome 20 anni fa. Insomma, parlo al povero, ancora corro, sì. Gioco ancora a pallone, sì. Per intendersi, sì. Pur nonostante la mia età. Lei è rincorso incazzato come una bestia. Mi ho troncato un braccio, sì. Poi per portare pace, perché tutte le sere più o meno mi aspettavano sotto casa, non c'ho strai, sì. Ho dovuto, sul consiglio del maresciallo dei carabinieri, ha detto, dagli qualcosa e lei, perché prima o poi ti entri in casa con la gola tagliata, cioè non c'entri, ti stendano fuori. Ah. E questo ho dovuto fare, questa è la legge che ti difende italiana, perché se non riprendono sul fatto... Non Luciano, non ho capito, quante armi hai in casa adesso tu? Io ho 2 fucili, sì. Un sovrapposto e un automatico a 3 colpi, sì. E una pistola a 6 colpi. Secondo la legge tu li dovresti tenere chiusi a chiave, la pistola sotto il cuscino però. E la mattina li rimette a posto. Ma la pistola sotto il cuscino però. Sì signore, con 6 colpi in canna. E mi chiudo a chiave in camera, non ti faccio ridere, mi chiudo a chiave la in pistola camera, non la pistola, sfondare la porta. La pistola non la potresti tenere sotto il cuscino? Come io ce la metto, e beh, dopo te parleremo. Comunque, vabbè, Luciano, ti dico un'altra cosa, sì, te lo insegno agli altri. Mm. Procurarsi una pistola giocattola senza il tappo rosso, se fa in tempo dopo te la metti in mano, legittima difesa. Questo ho imparato. No, ma questo è interessante. Cioè, secondo te bisogna procurarsi una pistola finta, metterla in mano, solo che poi ormai... A quello che ha girato, se lo prendi, sì. E dici, oh, io ho visto un pistolone, ho fatto prima. Sì, il problema è che ormai... Va bene, comunque va fatto così. Il problema è che ormai con le impronte, con le tecniche che ci sono oggi... Comunque discutiamo. E comunque, vedi che tanto la giustizia tanto ti mette sotto inchiesta, a parte, diciamo, che è una cosa di ufficio. Vediamo dopo come lo tratteranno. E fa bene Maroni a pagargli la difesa. Fermo Luciano, 30 secondi, aspetta un attimo. Fermo lì Luciano, che ho pizzicato una persona, vediamo un po' se riusciamo a fare sto collegamento, vai. chissà cosa ne pensa Parenzo di questa vicenda di pistole, di legittima difesa, di gente che si difende in casa, il nostro augusto europarlamentare Gianluca Buonanno. Gianluca, buonasera, come stai? Buonasera a voi, ciao, tutto bene, grazie. Parenzo? Sì, il pistola, sai come si dice a Milano? È un classico pistola lui, sai cosa vuol dire a Milano pistola? Sempre lo so. È proprio un pistola. Meglio pistola che pistolino. Proprio pistola. meglio pistola che pistolino. Deputato europeo sempre. Senti, ma a proposito. Sempre deputato. A proposito, europeo. Ce l'hai un'arma tu a casa? Non ce l'ho, ma ci sto pensando veramente di prenderla, perché con quello che succede in giro per il paese, chi si difende diventa praticamente l'imputato. Essendo io sindaco, ho pensato di fare una cosa che secondo me può essere utile. Cioè? Invece di fare il bonus bebè, sì, mi invento e metto un fondo, costituisco un fondo che si chiamerà bonus pistola. Creerò un fondo, sì, con i vari risparmi che comunque faccio all'interno del comune, per fare in modo che uno che vuole acquistare una pistola per la difesa a casa, sì, può ottenere dal comune 250 euro, che quindi è più o meno un terzo del costo di una pistola. Sì. Cioè tu vuoi contribuire, vuoi dare un contributo per chi si vuole armare praticamente? Sì, incentivo l'acquisto della pistola da difesa ovviamente, casa, come comune. Cioè il comune dice: hai paura di stare in casa perché c'è la delinquenza, perché ci sono problemi. 250 euro. Le forze dell'ordine. Sì. 250 euro e la tua pistola invece di costare, ipotesi, 750 euro, ti costa solo 500 euro. Ma veramente. Il bonus pistola è ottimo. Ma se il bonus tu... pistola è una stupidaggine eclatante. Ma è giusto sparare in fronte a qualcuno quando entra dentro casa un ladro? Quelli che lo fanno dovrebbero essere assolti senza nemmeno iniziare il processo, o sbaglio? Direi proprio di sì, cioè è legittimo. Non è che tu vieni a casa mia per portarmi un presente per sentire se io sto bene o sto male. Io dico una cosa. Ma che credibilità ha un signore, un parlamentare che gira vestito da Hitler per il Parlamento europeo? Noi parliamo di una idiozia, di un personaggio simile, di un uomo simile. Buona poi notte. Dove stai andando? Dove sei adesso? A Bruxelles? Sì. E dove stai andando ora? Dove sto andando? Sono a Bruxelles. Stai a Bruxelles. Vabbè, ma domani vai in televisione, no? Dove vai domani? Domani vado in televisione e poi faccio la mia attività di parlamentare. Ah, quindi se vai a Bruxelles, adesso te ne torni a Milano per fare la tua comparsata da qualche parte e poi te ne ritorni a Bruxelles. Bello, pagato coi soldi nostri. Bello questo eurodeputato. Bravo, bravo sto pagliaccio. Sto pagliaccio da circo. Ma vergognoso. Vergognoso. Va a fare le comparsate. Comparsate in televisione a sparare stronzate sulle pistole. Pagato da me. Pagato da me. Ma che fai? Che stai morendo? Anziché starsene a lavorare al Parlamento europeo senza fare cazzate vestito da pagliaccio, da Hitler, buffone, guarda, è una vergogna. Una vergogna schifosa. Hanno chiuso dentro un campo di concentramento. Una vergogna pazzesca. Ma che è successo? Non ho capito, Parenzo. Non può andare in televisione. Non può andare in televisione. Per fare l'eurodeputato è a Bruxelles, prende l'aereo, va a fare il pagliaccio in televisione quando dovrebbe stare a lavorare al Parlamento europeo. Se ne con i soldi nostri, avanti e indietro con l'aereo come fosse un taxi. Ma che vergogna. Gianluca, rispondi a questo. Cazzate fai? Perché cosa sto facendo? Ti vesti da Hitler? Questo fai come eurodeputato? Ma cazzate fai? Solo cazzate. Fallo parlare almeno, no? Ma Gianluca, non fai parlare 14.000 euro al mese per vestirsi da Hitler? Basta! Mi avete stufato! 14.000 euro al mese per vestirsi da Hitler al Parlamento europeo! Guarda che ti senti male. Chiamate la guarda che muore anche Parenzo, sta morendo Parenzo. Chi paga sti viaggi del cazzo che fai avanti e indietro? Chi se ne frega di dove vai in televisione a sparare stupidaggini? I viaggi sono nel budget che tu hai per poter quale budget? Non ti paghiamo per andare in televisione, ti paghiamo neanche per stare lì purtroppo a vestirsi da Hitler. Sai cosa vado a fare in televisione? Vado a discutere pagato dal Parlamento europeo la vicenda del signore di pagato dal Parlamento, ma non è il tuo lavoro quello. No, ma scusa Gianluca, ma per questa storia di Hitler t'hanno multato o no? T'hanno punito o no? Io non ero vestito da Hitler. Io ho solo fatto la parodia. Beh, poi sei andato in giro per i corridoi del Parlamento e ho messo un nastro isolante per qualche attimo facendo i baffetti, fine della trasmissione. Vabbè, sì, insomma, travestito un po', travestito, ma che ti dice? Ti hanno punito, non ti hanno punito, ti vogliono punire, quanto ti vogliono? Non ho ancora ricevuto, ma hanno fatto vedere una lettera che poi ho rifiutato di ritirare, ma che mi daranno, credo, lunedì prossimo, dove avrò 10 giorni di sospensione e 3.000 euro di multa. Bene, bene, meno male. Senti, ma hai visto quell'insegnante trans a scuola, in Friuli? Ho letto qualcosa, sì, che c'è l'insegnante trans. C'è un insegnante in realtà intersessuale. Sai cosa sono gli intersessuali? Gli ermafroditi, sai cosa sono? Sì, ho capito, che tengono per l'Inter anche. No, no, non sono dell'Inter, no. Ma ti rendi conto che... ma voi ridete, uno paga 14.000 euro al mese, un idiota. Ma tu, ma io veramente... Era una battuta, no? Ma guarda che è incredibile, ma tutti ridono. Ma io coi soldi miei non pagherei mai un idiota, però. Ma scusa, ma guarda che è incredibile. Ma secondo te i transessuali, gli intersessuali, eccetera, dovrebbero insegnare a scuola? Guarda, secondo me hanno 14.000 euro interni, quindi io eviterei queste cose. C'hanno dei problemi, dici? Hanno dei problemi loro, perché se nel fatto in cui si trovano non contenti del loro corpo, le situazioni, cioè tu dici, se tuo figlio lo manderesti a scuola, tuo figlio non sono adatti all'insegnamento, dici? Dovrebbero fargli fare una... Ma quello ci sono le prove per diventare insegnanti, che vuol dire? Quello non è che devono fare... No, vabbè, le prove psicologiche. Come prove psicologiche? C'è una prova psicologica in più. Turbe, ma no, nel senso che magari persone che hanno queste difficoltà... Beh, appunto. Un test psicologico, diciamo. Sì, un test psichico per gli insegnanti trans, sì, un test psichico. Beh, certo, direi di sì, perché magari avrà qualche problema anche psichico, non lo so. Beh, non è previsto però dall'ordinamento che ci sia una cosa, non è previsto dalle leggi che ci siano dei test psichici per gli insegnanti trans. Farei fare. Va bene, ciao Gianluca, ciao. Presto, ciao. Lasciati un parento. E alla defecarsi non ci penso. E allora niente, allora vai a farti foto. La Zanzara. Vorrei sapere lei il suo contratto, io non credo che sia fatto a un tanto all'ora, lei è fatto a un tanto a vanfanculo, più vanfanculo gli danno e più lei guadagna. Lorenzo, ti sei ripreso dalla morte pressoché certa prima, durante l'intervento di Buonanno? No, è tosse. Mamma mia, ma che vita fai per avere sempre la tosse? Sei sempre malato, sempre la tosse, la febbre, ogni tanto... Ma sempre no, veramente. Però... A me non succede mai nulla, mai niente, fammi toccare un attimo. Allora, tutti discutono di questa altre malattie, tu, no, diciamo. Io non ho nessuna malattia. Quelle venere. No, ma che malattie? Io non ci ho mai avuto malattie venere, che sei impazzito? Sì. No, mai uno scolo, mai una candida. Vabbè. Una volta anni fa mi è venuta una roba. Sono andato da mio zio che è urologo, ha detto ti passa, avrei avuto qualche rapporto senza, non protetto. Effettivamente quando ero più giovane facevo anche queste cose qua, ma molto più giovane, avevo avuto 20 anni, così. Ha detto in un'ora e mezza ti passa tutto. Mi era venuta una bolla pazzesca, beh, lasciamo perdere, le cose tremende. Pippe. Però adesso. Calma. La masturbazione va sempre bene, eh? Sempre il top assoluto, è sempre il massimo, diciamo la verità. È inutile, tutti maschi dietro quel vetro là, un posto di maschi terribile. La masturbazione è sempre il top, ragazzi, sempre il top assoluto, meglio di qualsiasi rapporto sessuale. Si parla molto di vaccinazioni, no? Di vaccinazioni obbligatorie, non obbligatorie, non ce ne può fregare di meno. Qui non è la trasmissione adatta, non è, come si chiama, Diga 33 lì, Onder, non è la trasmissione quella che una volta c'era di Salute la mattina. Però tempo fa alcuni deputati dei 5 Stelle hanno presentato un disegno di legge sui dipendenti pubblici che sono obbligati a fare i vaccini. E in questo disegno di legge c'è questa frase, caro Parenzo, senti, recenti studi, una roba del 2014, recenti studi, scrivono questi signori dei 5 Stelle, recenti studi hanno messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune malattie specifiche, quali leucemia, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, è quella che sta prendendo te adesso, mutazioni genetiche trasmissibili, malattie tumorali, autismo e allergie. Anche. Cioè, questo hanno scritto alcuni deputati, senatori, non mi ricordo, dei 5 Stelle, tra cui l'amica Emanuela Corda. Deputata, senatrice, credo senatrice, che è? Boh, no, deputata sarda. Recenti studi hanno messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune malattie come leucemia, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, mutazioni genetiche, malattie tumorali, autismo e allergie. E che, ragazzi, cioè, sarebbe un'ecatombe in Italia, praticamente, nel mondo, un'ecatombe. Con Luciano dalla provincia di Lucca, che mi ha molto divertito prima, l'amico Luciano che attaccava Parenzo a spada tratta, da 20 anni dorme con 3 armi vicino al letto, ci ha descritto tutto nei dettagli. Caro Luciano, ti volevo dire una poesia, così faccio contento Parenzo, me la fai dire? Sì. Vai con la poesia. Piccola. Vai. Allora ascolta, siccome ci saranno le prossime elezioni a Roma, sì, questa è la mia poesia. Sì. E alzeremo al vento le bandiere e marceremo con il battaglione. Riprenderemo Roma capitale, la prenderemo a colpi di cannone. Ehi, allora! Beh, ecco. scusa Luciano, ma scusa, no, non mi piace Luciano, ma che è? Ma scusa, tu sei un vecchio fascistone, diciamo la verità. Sì, va bene, era per fare la battuta. Sì, tu. Ma è un... Lega comunque, per ne parlassi. Lo posso, sì, ma siamo là, dai. Scusa Luciano, ma tu sei un fascistone. Ormai proprio, siamo tu... là. Fatto, è finito, ma no, come no, però, riprenderemo per Roma, amico mio. Gli amici faccio questo. Sì. Te le posso dire con un'altra? Diverte... Dimmene un'altra. Vai, te lo dico. Allora, ascolta. Il giovane Barilla allerta sempre sta, e scruta l'orizzonte se il comunista viene. Il fucile già in braccio, la baionetta in canna. È pronta alla battaglia e un grido lancerà. Famosissima. Scusalo, portalo in tribunale per apologia di fascismo. Ma no, semplicemente... in tribunale per apologia di fascismo. Ma questo è semplicemente un malato di mente. Non deve essere ha curato. Detto che sei un malato di mente. Ma ha sentito, credo. Giuseppe, dimmi Luciano, per fargli passare la tosse a Parenzo, probabilmente lui quando fa quel servizio lo fa con l'ingollo e quello gli fa venire la tosse. Cioè, esatto, che servizio esatto. Fa? Tu dici. Ma esatto, non credo. Parenzo impassibile. Ma che ti devo dire? Impassibile, proprio. Ascolto con interesse le parole di questo signore. Non lo dico, ma lo penso, caro Parenzo. Non mi avrai nella provocazione. No, infatti la radio è fatta così di silenzi. Giampiero, no, da Cosenza, ma non vai. Di stronzate dette, sì, in 40 secondi. Anche quello, sì. Altrimenti c'è sempre la porta là. Giampiero Cosenza, vai. Ciao, per carità. Luciani, buonasera. Per carità. Vai. Allora, io gli dico a Parenzo solo che vicino al letto c'ho un'ascia, quindi non mi serve il porto d'armi, quindi sono a posto. Quella non deve essere dichiarata, può tenerla tranquillamente vicino al letto, a patto che quando fosse... scende dal letto non ci metta il piede sopra, ma questi sono fattacci suoi. No, guarda, è tra il letto e il comodino, quindi benissimo, problemi non ce ne sono. Poi, e allora tenga l'ascia, poi, perfetto. Se fosse a buon anno, io darei l'incentivo a chi... spara a queste persone che vanno a rubare, c'è a casa, un premio in soldi addirittura. Alle gambe, di modo che devono dare modo che poi lo beccano. Comunque non ho chiamato per questo qua, ho chiamato per una cosa ancora più bella. L'altro giorno ero mangiando un pezzo di pizza ad Anagni, provincia di Frosinone. Sfoglio un quotidiano della zona, la provincia di Cassino, che è un quotidiano proprio come il Messaggero, come c'è. Sì, allora? Le ultime 3 pagine piene di culi con perizome, numeri di telefoni di prostitute di Valmontone, Cassino, Roma, Frosinone e più non posso. Quindi c'è un quotidiano. Sì, ma questo che vuoi dire? Cioè, è una cosa normale. Voglio dire, chiama gente che dice ma parlate di queste cose alla radio la sera, ma se si sfoglia un quotidiano, ma sì, ma sono tutte ipocrisie dai, su tutte enormi ipocrisie, cioè, la prostituzione è intorno a noi ogni giorno, se non vogliamo vederla uno può anche non vederla, può decidere di non vederla. Non mi era mai capitato di sfogliare un quotidiano, ma sì, ma la roba vecchia questa qua, scusa, no, quale roba sul vecchia, Messaggero, falsi annunci economici, dai, ma no, si sa da sempre, economici, roba di martedì, io mi sono lui dice annunci proprio diretti, sì, cioè, non, diretti. So, non con la cosa dei massaggi tipo il messaggero di Roma, no, cosa del genere. C'è proprio la foto in perizoma, numero di telefono per qualsiasi prestazione. Ma che giornale è, scusami, che giornale è? La provincia di Cassino. A parte che non c'è bisogno, basta andare su internet, c'è qualsiasi cosa, mille siti, mille cose. Lunedì, le ultime tre pagine, sì, tutti a perizoma fuori con annunci e numeri di telefoni. Valmontone, Roma, Cassino, Frosinone. E tu che hai fatto là? Che hai fatto? Mi stavo mangiando un pezzo di pizza a un bar allo Svingolo. Sì, allo Svingolo? Allo Svingolo di Anagni, lì. Sì. Vado per sfogliare la zona lì, sì, che, le notizie, sport e via dicendo. E ti sei eccitato? E ti sei eccitato all'improvviso? No, che cazzo mi eccito a vedere i giornali? Io mi eccito più a sentire il stronzo di Parenzo che dice cazzate. Ah, ti ecciti, ti ecciti con Parenzo, ma è bellissimo. Sì, proprio perché proprio. Ma poi non ho capito, Parenzo, ma in televisione non lo, sì, fai lo stronzo e alla radio sì. Ma che vuoi fare? Ma come mai? È così. Perché c'è spazio, in ogni media c'è il suo ruolo, no? E si attacca a Pippone. Vabbè, però. No. Però dai, però voglio dire, alla televisione dovresti fare, dovresti, vabbè, ognuno, fa quello, fare che ognuno fa quello che vuole, dai, ognuno fa sei quello un duble fast, sei un duble fast, duble fast, sì, duble fast, sì, duble fast, come i giubbotti quelli invernali, no, che poi togli e diventano puttana, primaverili, insomma, no, ho detto per non dirti la puttana ti dico sei un duble fast. Sarebbe stato meglio la puttana. Spiros, Firenze, ciao amico mio, ciao Spiros Firenze, Cruciani, Spiros, ma che cazzo di nome è Spiros, che è greco? Nome è greco, è greco, beh, che c'è il padre greco, la madre, che c'è? No. Sì, i miei genitori sono nati entrambi in Grecia, ma sono italiani all'estero, poi ricacciati in patria alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Spiros, che vuol dire Spiros? Sì. Che non mi ricordo? Come? Spiros, che vuol dire? Che non mi ricordo. Ma che ne so, io non lo so. Ma come non sai il significato del nome tuo, amico mio? Prego? Ma non sai il significato del tuo nome, dai. No, non lo so. Vabbè, allora? Non te lo so. Allora, io chiamavo soltanto per porre una questione al tu avanti, vieni avanti cestino. Significa cestino, cioè cesso, dove butta una roba, così significa. No, per favore, ti giuro, significato. Scusa, Spiros, significato del nome greco. Ho cercato al volo qui. È un nome maschile, ha origine dalla cultura greca. Spiros significa cestino, amico mio. Oh, che vuoi fare? Ma che io non ho mai trovato una spiegazione come questa. Ho cercato adesso in 3 secondi, come fanno tutti i dilettanti su Google. Ma figurati. Spiros significa cestino. Non ho mai trovato una. Comunque è un cognome italianissimo, perché mi poi chiamo c'è Stella. Anche Spiro, che significa soffio vitale, spirito, anima, può darsi che sia questo, eh. Comunque vabbè, vai avanti, dai, che ci frega adesso di Spiro, dimmi. Ma infatti, che cazzo se ne frega, ma se tu che me l'hai chiesto, beh, io ti ho risposto. No, ma è vero, sì, no, hai risposto che non lo sapevi in realtà. No, ma comunque è un cognome italianissimo, ti ho appena detto come mi chiamo Stella di cognome, quindi è un cognome Spiros veneto. Spiros Stella, no, infatti. Yes, sembra quasi il nome di un disgioco, vero? Mm. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Non... Vabbè, insomma, ti dicevo, volevo porre una questione al tuo, viene avanti. Dimmi, cretino. Dimmi. Perché vedo che ad ogni passo disconosce il diritto di difendersi anche ad ogni costo. Non ho mai sostenuto questa cosa. Sì, che lo dice fai. Che ci sono le leggi che limitano. Ci sono le leggi che tutelano il diritto. Ma è, questa, è una banalità purtroppo che va. Guarda, aspetta, facciamo un parallelo, un esempio con la tua patria di elezione, diciamo così, caro Parenzo. Ci, ma l'esempio con Israele, ma la mia patria è l'Italia. Aspetta, fammi finire. Vabbè, abbiamo capito. Io sono un estimatore totale e approvo tutto quello che fa, quindi non mi dipende, non è vero. Saresti fuori luogo. No, dipende, allora, non è vero, non è che approvo tutto a prescindere. Non è vero, ma dipende. Ascolta, ma che ne pensi del diritto dei tuoi confratelli regionali che svolgono sparando addosso a questi stronzi che li assalgono con i coltelli? Intanto, come lei sa, perché è una persona colta nonostante il suo nome che segna la sua identità, cioè Cestino, in Israele tutti hanno l'obbligo di fare il servizio militare. E quindi guarda, siccome piacere, tutti guarda, hanno l'obbligo di fare il servizio, guarda, siccome non tutti, fare, caro signor Spiros, il cui nome evidentemente ha una sua ragione, ora capiamo perché anche è così. Anche perché nome, caro mio, anche perché nome, dai. Esattamente, dai. Sì, infatti. parenza. La balanza, lo sai che cos'è la balanza? È un pesce. Allora, è un battello puttanese di pesce. Guarda, quindi, siccome il suo nome giustifica le sue parole, le spiego cosa che forse lei già sa, che siccome in Israele c'è l'obbligo del servizio militare per maschi e femmine dai 18 anni fino ai 21. Non è un trattato questo, eh? No, ma mi ha chiesto e gli rispondo. No, sì, siccome questo è l'obbligo di fare il servizio militare, siccome c'è l'obbligo per tutti di fare il servizio militare, a tutti insegnano anche l'uso delle armi, quindi è diverso. L'uso delle armi non è criminalizzato, è una situazione diversa, ma l'uso delle armi viene addirittura invogliato, cioè viene come abbiamo appreso in questi giorni. Sono casi diversi, quello è un paese in guerra, ci sono altre situazioni, però diciamo non criminalizzano l'uso delle armi. Tu invece in Italia pensi che le armi vadano limitate, punto, diciamo, e basta. Non c'è gente che t'accoltella per strada. Ma c'è gente che, come no, gente che t'accoltella per strada, purtroppo criminali, non per motivi religiosi, non per motivi religiosi, eccetera. È paragonabile alla situazione che c'è nella striscia di Gaza? No, che c'è tra la striscia di Gaza, non c'è manco un israeliano, amico mio, nella striscia di Gaza non c'è manco un israeliano. Che c'è tra il confine tra la striscia di Gaza e Israele? Vabbè, ecco, paragonabile, se è così io mi informo e cerco pubblicità di capire se è così. Però... Ho detto di no, pubblicità. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. E alzeremo al vento le bandiere e marceremo con il battaglione. Riprenderemo Roma capitale e la prenderemo a colpi di cannone. Elea! Allora! A parlare il nostro amico, un mito ormai assoluto del web e non solo del web, Eziolino Capuano, allenatore dell'Arezzo. Io vi squarto, se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto. A quando chiuso da sta? Le checche non vanno bene. Questi precedenti di Capuano, che ha praticamente fatto cacciare dalla sua squadra il giocatore che ha registrato tutti i colloqui all'interno dello spogliatoio. Ieri sera, processo del lunedì. Io ho fatto tanto di peggio di quello che è successo in di quello che hai fatto l'accidente. Ma io voglio chiarire un concetto. Rimango basito per una sola cosa, perché non è tanto la sacralità dello spogliatoio, oppure mettere in rete ciò che accade nello spogliatoio. Sì. Questo nasce tutto come una ragazzata. Intanto bisogna vedere uno come dice le cose, no? Se le dice con cattiveria, io sicuramente esagero, non io ho esagerato soltanto in quella circostanza. Il mio rapporto con i giocatori è questo, però penso di non aver mai nella mia carriera fatto a botte con un giocatore o avere dei rapporti non belli. No. Spiros l'abbiamo liquidato, questo è Eziolino Capuano, prossimamente alla zanzara, zio Capuano, eh. Spiros, allora? Sono qua. Allora, che volevi dire? Hai finito il tuo ragionamento? No, cioè, no, non ho dire? Finito, perché io ho estremizzato quel semplice esempio per dare l'opportunità al tuo viene avanti cretino di redimersi, perché di redimersi. Poi, quando gli porti il parallelo a qualcosa che gli sta a cuore, lui diventa a un certo punto un pacifinto, no? Invece che un pacifista, perché insomma le bombe su Israele non vanno bene. Giustamente, però scusami, io capisco la provocazione, Spiros, cioè abbiamo appena letto oggi su un giornale italiano molto prestigioso un articolo in cui non si parla solo dell'autodifesa, cioè della difesa militare, ma si parla proprio dell'autodifesa in situazioni di emergenza. Uno può anche sostenere che in alcune zone d'Italia ci sia una situazione di emergenza che giustifica il fatto che gli italiani si armino. E dunque cosa succede? Succede che il governo ha alleggerito le misure sul porto porto d'armi in Israele. Se qualcuno vuole ucciderti, uccidilo prima. Funziona così in tutto il mondo. Insomma, sta passando una nuova, se vuoi, una nuova, no, una nuova legge, forse un nuovo modello di autodifesa. Perché non deve succedere lo stesso in Italia? Cioè, perché uno aggredito d'accordo dentro casa non può permettersi dentro casa sua di reagire come vuole, o alzando le mani e facendosi inchiappettare dal ladro, oppure sparando in fronte, ammazzando e anche continuando a sparare per essere sicuri che quello è morto. Io questo non lo capisco. Questo è il punto fondamentale. Dai, no, ma poi scusa, c'è anche un altro principio di base: ad un'azione corrisponde una reazione. Cosa dirai? Questa deve essere proporzionata. Ma se uno mi entra in casa, che non so che cacchio di intenzioni, ma che proporzione ci deve essere? È chiaro che non ci può essere proporzione. Difendere, si deve difendere, non è allora, questo. Siccome uno entra in casa già violato quello che è il mio intimo, la mia infatti, sicurezza, ma lei si può difendere, questo che lei non capisce. Sì, ma non secondo capisce la legge, ma uno non può, Parenzo, però tu ti rendi conto, uno non può prima interpretare la legge quando si difende, cioè non puoi spari quando spari, punto, i casi sono talmente rari. Ma che non è vero, se ne presenta uno al giorno. Se non è vero, ti sbagli, se ne presenta uno al giorno. Qui intanto per ora ne è stato condannato soltanto uno. Ah no, ma adesso poi ti darò una statistica su quelli condannati. E neppure in via definitiva. Ma il problema poi è tutto il percorso giudiziario che c'è. Cioè è un questo vale per qualunque cosa. Sì, questo vale anche per un accertamento del fisco, che uno deve dimostrare di aver pagato le tasse e purtroppo si deve accollare delle spese con l'avvocato. E poi una volta che ha dimostrato di averle pagate, ha speso 2000 euro di avvocato. Vale purtroppo per qualunque cosa dello Stato. Ma perché uno deve dire purtroppo e poi dice vabbè, vale per tutti? No, ma allora no, cioè mettiamoci da così, non so. Fermo lì. Traffico veicolare. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento La Zanzara. GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Finalmente si alza una voce ragionevole da casa Parenzo, finalmente si alza, si ode una voce ragionevole da casa Parenzo. Santa donna, si vede che c'è il sangue di un certo tipo lì, l'autodifesa, le armi, no, l'esercito israeliano, temevo. Si vede, mi emozionano queste cose, si vede che c'è l'autodifesa, la vedo là con la mimetica, con la mimetica, certo, e il fucile in mano, figurati, a difendersi dai palestinesi assassini. A Roma, in generale, ma dove in generale, così un'immagine che mi sono fatto, no? Si vedi, mia moglie col fucile fuori, moglie, con il ancora non è moglie, vabbè, non esagero. Vabbè, ho capito, moglie, non è moglie, compagna, non è moglie. Oh, signora Natania Zevi, attenzione, dice: a casa mia voglio potermi difendere. Questa volta ragioni, va a lasciare perdere il fatto che mi dà ragione, non è questo il problema. No, a casa mia voglio potermi difendere. E se non interpreto male, uno non può calibrare il tipo di difesa quando ti entra dentro casa. Bene, ma anche lei sei demagogica. Natania, sei demagogica, dice banale, il tuo compagno, sei demagogica. Ma non è così, ma cosa uno non vuol dire, posso vuol dire che certe ti puoi difendere, amore, a casa puoi, se uno entra a casa ti puoi difendere. Cosa non hai è detto? Questo, scusa, amore, puoi difendere. Ho detto amore, guarda che ti puoi difendere se uno entra a casa. Che bravo entra, che sei. Devo imparare da te qualche cosa. Devo imparare da te. È sei impossibile. No, lo so che è impossibile. Ma voglio dirti, qualche voglio volta dirti, devo imparare da te. Devo imparare da te perché sei veramente riesci. Meglio volta lui. Guarda, questo è pazzo ormai. È meglio lui che ci parla coi ladri, come se io parlassi coi ladri. No, ma voglio dire, è una provocazione giusta, secondo me, in questo caso di Natania. Perché? Perché lei dice una cosa, credo che di poterla interpretare. Quando tu entri, quando ti entra qualcuno dentro casa e tu hai un'arma, poi io decido di non averla. Infatti, non ce l'ho, io ragiono in questo modo e ti dico certe cose, ma non la comprerei mai, perché penso che sia pericoloso e potrei morire. Invece un ladro magari ti ruba a casa e basta e se ne va. Quando uno entra dentro casa, tu non puoi calibrare la tua difesa in base al fatto della legge, ragionare due colpi, tre colpi, prima alle gambe, poi alla testa. No, spari per difendere te stesso e i tuoi, anche i tuoi averi, è così. E poi meno guai passi, meglio è. La legge deve avere delle scappatoie, magari ce l'ha pure in alcuni casi, in molti no. Le persone attraversano quello che viene chiamato un calvario giudiziario, è così, è la realtà di ogni giorno. Ma guarda quel poveraccio, per avere sparato a due signori, rom o non rom, 135.000 euro e 5 anni e 4 mesi, solo perché gli ha detto bastardi, storia. Vi ammazzo, e perché ha insistito a inseguiti, sparare per terra. No, li non li ha insistiti. Li per terra. Erano per terra crivellati. Anche quando erano già per terra, li ha crivellati. Ma non è che te l'ha ordinato il dottore di andare a rubare, allora, a rubare il rame è un po' diversa. O il ferro da qualche parte, non è che te l'ha ordinato il dottore. Nessuno lo mette in discussione. Ho capito, però a un certo quelli punto. Quelli sono due ladri. Matteo da Monza, vai! Matteo! Ma perché non istituiamo allora la pena di morte per violazione di domicidio? Appunto, per bravo, il esatto. furto di una mela. Ma la pena di morte, quindi che c'entra? La pena no, di morte? Perché sì, bravo, perché bravo, così, esatto. perché se io posso sparare a uno che mi entra in casa, posso sparare a uno che ruba una mela, mettiamo la pena di morte per il furto di una mela. Ma siamo a livello di bestialità. A me hanno insegnato che le leggi servono per evitare che i cittadini si facciano giustizia esatto. da soli, per evitare esatto. la no, però, bestialità. Matteo, nessuno sta dicendo. No, il problema è che la bestialità, il cazzo che. Il fare il cazzo che si pare solo perché sono in casa mia è una cosa che probabilmente è. Ma questo è fondamentale, cioè, però scusa. Cruciani, ti eccita. Ti no, eccita non è che mi eccita. La bestialità, ma... sparo. Ma io no, ma non è l'eccitazione, Rambo, scusa, Matteo. I tanti Rambo della Val Brembana che sento. Sì, i tanti, dimmi. No, perdonami, perché poi. Vai, vai, vai, vai. Quando ci armeremo tutti e saremo tutti armati. Ma non è vero, non sarà così. Ma non sì, sarà così. Perché, ma non sarà così. È possibile armarsi e sparare al primo che capita, come in America. Dove tant'è che i morti, le violenze sono molto superiori. Se passa questo concetto per cui tutti possiamo avere un'arma in casa, poi però quello che ti entra in casa è sempre più stronzo di te. E se oggi ti entra a mani nude, domani ti entra armato, e appena ti vede ti spara, non ti ruba e basta. Vabbè, ma quella è una scelta, però quella di armarsi o no. Nessuno ti obbliga a avere un'arma in casa. Ma uno stato di diritto, piuttosto che rompere i coglioni perché ci siamo già al controllo del territorio, piuttosto per evitare che le persone ti entrino in casa. Ma se lasciamo che ognuno può fare il cazzo che gli non pare. Detto quello, no, scusami. Ma se uno ti entra in casa, Matteo, tu spari, cos'è? Io credo che dentro in Italia purtroppo il concetto di proprietà privata e di difesa della proprietà privata per tanti anni è stato negletto, è stato abbandonato perché per mille motivi, adesso non stiamo qui a riesumare perché la zanzara non è che si possono spiegare tante cose. Però è questo il punto, allora, la proprietà privata in altri paesi ha molto più valore rispetto dentro, al nostro paese. Le mura di casa si sospende lo stato di diritto. Ma non è sospendere lo esatto, stato di diritto, ha ragione lui. No, quello adesso ascoltami. Bisogna adeguare le leggi in modo ascoltami. Che tu dentro casa, secondo questa me è la conseguenza di quella ragione no, lui, non è un paradosso quello che lui fa, è vero? Cruciale, ti faccio un esempio, faccio un semplice esempio. Se qualcuno mi ammazza un parente, una sì. persona cara. Sì. L'istinto mio è quello di prendere. Ma quella è una cosa diversa, giusto? Però. Quella no, è diversa. Quella è vendetta. No, quella è la vendetta. No, è diverso. Ma magari no, ma quella emotiva. È la vendetta. Vai ma in galera. Emotiva, in quel caso, vai in galera sicuro. Ed è giusto che vai in galera. Immediata. Ed è giusto andare in galera. Ascolta, ma se io sparo a una persona. Ma quella ce l'avrei anch'io quel desiderio di ammazzarlo. Allora, è chiaro. Io sto parlando di un'altra situazione, però, Matteo, tu confondi le acque. Ma stai confondendo. Ho capito. Io sto. Certo. In molti casi, che cosa succede? Ragazzi, però non possiamo insistere su questa cosa per 30 anni. Adesso cambiamo argomento e mi avete rotto i coglioni tutti quanti. Matteo, tu stai dicendo come legittimare la pena di morte per la violazione di domicilio. Ma per... dire che se uno entra in ma casa, nessuno a rubare una mela dentro casa. Dentro casa c'entrano i criminali veri, gente che stupra. Bene. Gente che stupra entra dentro casa, capisci o no? Ma che dentro casa entra gente che stupra e che ammazza. Non c'entrano quelli che vogliono rubare le mele. Quelli che vogliono rubare le mele ma vanno nei supermercati. Che... Dai, su. Allora, ti sto dicendo, in casa entra gente pericolosissima. Pericolosissima. Allora, se uno sospetto certo. che sia pericoloso, gli sparo, ma anche se lo vedo al buio e mi viene incontro guardandomi male. Ma quello succede, infatti. Il signore di 65 anni, a Vaprio Dada, ha ucciso uno che. Ma anche per strada, se mi guarda male. Ma che uno c'entra, dai, ma è diverso per strada. Ma è diverso per strada, su, amico mio. Ma non puoi non capire che è così. Dai, su. Cioè, ma stiamo parlando di una cosa specifica. La reazione dentro casa, dai. Ma esiste la legittima difesa. Vabbè, ma questo è banale. Questo è banale. Parenzo se lo ripete da 4 giorni. Esiste la legittima difesa. Perché e noi vogliamo così? Cambiarla. Noi vogliamo cambiarla. Noi. Non lo so, cioè, noi che uno ti entra in casa e tu puoi sparare. Ma non è. Dentro casa è possibile tutto. Dentro casa. Dentro casa è possibile. Sì, secondo me sì. Qualsiasi tipo di reazione. Dentro casa ma che sospendi che cosa? Sospendi che? La reazione significa che se entra un ladro e se sente un rumore di uno che sta entrando dentro, e molto presumibilmente è un ladro, prendo una mazza da baseball e gliela scarico in testa. Prendo se ho il coso, se ho una pistola. scarico il caricatore finché quello non è a terra stramazzato. Ma persona, ma perdonami, ma se io sparo e ammazzo una persona e l'ammazzo perché mi entra in casa, l'ammazzo in giro, è chiaro che la pena è diversa. Però l'idea che io possa ammazzare una persona, cioè può capitare, dopodiché non puoi non considerare reato ammazzare una persona a prescindere da come quello ammazzi una persona, è chiaro che insomma, il danno c'è. Fermo, grazie, fermo lì. Adesso la borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità, paro. Allora ragazzi, il senatore del nuovo centrodestra Carlo Giovanardi pare abbia ricevuto delle minacce di morte non solo rivolte nei suoi confronti ma anche dei suoi familiari per le sue posizioni sulla questione delle unioni gay. Ora dico, va bene tutto, no? Giovanardi spesso qui lo abbiamo attaccato, abbiamo fatto una grandi battaglia sulla questione degli omosessuali, dei diritti, del matrimonio, dell'adozione, Parenzo in particolare, su altre questioni, la vicenda Cucchi, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Però quegli imbecilli che minacciano di morte uno che esprime le proprie idee, le proprie idee, perché non è che sta scritto da nessuna parte, che si debbano fare i matrimoni omosessuali e si debbano fare per forza le adozioni omosessuali. Giovanardi esprime le sue idee. Lasciatelo in pace, lasciatelo combattere, non minacciatelo di morte, perché tanto oggi le minacce di morte le scoprono in due secondi, inutile che mandate le mail. Cioè mandate le mail anonime, che mail anonime? Ti beccano il computer e ti fanno un mazzo così. Dunque è inutile che fate gli stupidi via mail, no? Che fate i furbi. Peppe, a lotta e cazzo, Peppe, costi feroci. Vabbè, dai, su, amico mio. Succede a Napoli, amici miei. Non ci siamo dimenticati della vicenda di Ercolano, non ce lo siamo dimenticati. E allora qualche voce vi voglio offrire, qualche piccola voce ancora dai parenti dei due signori rimasti uccisi nella sparatoria, cioè nel tentativo di rapina durante la quale il gioielliere ha reagito ed ha ammazzato due signori. Anna Petrone, famiglia Petrone. Petrone è uno dei due rimasto ammazzato. Anna credo che sia la moglie, la moglie. Ambama l'ha sparato. L'ha fatto prima giro e poi l'ha sparato. Perciò mo stava facendo che chiusava che ha sbagliato. Alla traduzione, ha fatto il giro e gli ha sparato da infame. Tu ti rendi conto? Ormai questo qua non può più tornare lì perché lo ammazzano sicuro. Se ma non no, adesso, la famiglia di tra questi 3-4 criminali anni. Sono come le vendette che si consumano, no? Nella criminalità. Le vendette si consumano a lungo periodo, dopo 3 anni, 4, 10, 20 addirittura. No, ma c'è da aver paura. Ma la magistratura, però, mi hanno detto che anche la polizia che è intervenuta. Sì, è intervenuta. Lo sappiamo che è intervenuta, ma che vuol dire? Gli spari, si può sparare anche a queste persone qui, volendo. A chi? A questi qui, ai parenti. Si sì, può scemo, sparare. Sì, facciamo. Far West, facciamo. Appunto, è quello che ma ti sto dicendo. Ma che c'entra? Esatto. Io sto parlando di una cosa diversa, della reazione della difesa in casa, mica dello sparare a uno così per allora, strada. I parenti questi di Ercolano sono dei criminali. E vabbè, vanno arrestati per istigazione alla violenza, all'istigazione all'omicidio. La polizia e la procura li sta indagando per minacce, mi risulta. Giuseppina Scarallo, famiglia Tedeschi, un altro di quelli morti, senti. Da quando stava con me, erano quasi 10 anni che lui aveva smesso di fare tante cose perché era entrato in un progetto di recupero dell'indulto, sì. Esco dentro, che avevano permesso ai detenuti di avere un sussidio e poi dargli un posto di lavoro. Lui per sussidio pigliava questo, capito? Andava a fare rapine col sussidio, mamma mia che paese ragazzi, che paese del cazzo, usava a fare le rapine col sussidio. Dai, su. Ma abbiamo con noi, amici miei, reduce dalla Spagna, da una grande esperienza in Spagna e rappresentanza del nostro paese, Elettra Lamborghini, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? È un piacere parlare con voi. Io bene, voi? Bene, non c'è male, non c'è male. Che sei andato a fare in Spagna? Raccontaci. Sto vedendo le foto della signora Lamborghini. Che si fa? Ti stai eccitando con le tette? Non mi permetterei mai assolutamente. Ma qual è la tua misura, signora Lamborghini? Ma sono le macchine quelle della signora, però, anche, no? No, come le macchine? Vedo delle macchine oltre che le foto della signora. Beh, sì, la Lamborghini, come dice il nome, è erede della famiglia Lamborghini, una degli eredi della famiglia Lamborghini. Ed è andata in Spagna? Di cosa si occupa? Di import-export? Fidelizzare il brand della Lamborghini in Spagna? No, di no. Che sei andata a fare in Spagna, Elettra? Ho fatto un programma che si chiama Super Shore, che è un, diciamo, riadattamento al famoso Jersey Shore. Sì. E che ruolo avevi? Una dei partecipanti. Un reality? Un reality nella quale sono, nel nostro caso eravamo in ragazzi in una casa che niente, si diverte. Che avete fatto? Si divertono? Che avete fatto? Avete rombato, no? Ma adesso non ti posso dire tutto perché ancora deve uscire, sarà una sorpresa. Ma che avete fatto? C'era sesso dentro questa casa? Cosa? C'era anche sesso dentro questa casa, no? Ma no, lo vedrete. Vabbè, non è un mistero, non è un mistero di Fatima. Senti, ma le tue misure quali sono? Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, per farli anche sognare, no? Sognare con Elettra Lamborghini. Ragazza giovanissima, quanti anni hai, Elettra? 21, ma vado per i 20. 21 ma vai per i 20, non è male sta cosa. 21 ma vai per i 20. 21, ah. 21 ma vai per i 20, capito? Cioè, vai all'indietro. Giustamente va all'indietro. Sai che è stata anche vegana la signora, o è ancora vegana? Non lo so. Elettra, no, direi proprio di no. Mi piacerebbe moltissimo tornare, ma è un po'. Ma perché sei stata vegana? Cioè, se i vegani la prendessero come bandiera, forse potrebbe convincere molta gente, migliorare la loro immagine. È stato fantastico, però. Cosa è stato fantastico? Essere vegani? Sì, mi piacerebbe moltissimo tornare, però è dura. Devi saperlo fare. No, devi comunque andare da uno specialista perché fai le cose da solo e insomma. Ma non ho capito, qual è il problema di tornare vegani? Cioè, tu sei stata vegana per quanto tempo? Un annetto, direi. Un anno vegana. È particolare, proprio sei tornata indietro. Sì. Perché sei tornata indietro? Perché vuoi la carne? No, perché? Non mi sono rivolta a uno specialista, per cui ho fatto un po' da sola, insomma. Avevi un po' di problemi, dici? Avevi un po' di problemi? No, mi piacerebbe da morire tornare, però sì. In questo momento sono sicura che tornerò ad essere vegana, ma in questo momento tornerò a essere vegana. Mi piacerebbe moltissimo. Ti piacerebbe molto. Ma senti, ma non mi hai detto ancora le tue misure per fare sognare chi ci sta ascoltando. Extra large. Lo so, extra large, ma quanto c'hai? La settima, quanto hai? Ma dai, ma me l'avete già chiesto. Lo so, ma ridiciamo, la gente cambia, le persone dimenticano. Loro rimangono sempre le stesse. No, per fortuna no. Settima, che c'hai? La settima, l'ottava, che c'hai? Abbondante, sì. Settima abbondante, beh, ragazzi. Sì. Settima, ragazzi, naturale o no? Non credo. Hai fatto diversi ritocchi. Quanti interventi hai fatto? No, ma che diverso? Ho fatto due. Due interventi? Non è poco pure. Due interventini, una 20.000 euro. Quanto hai speso? La 20.000? Ma non lo so, guarda. E che te frega a te tanto? Sei ricca, dai, su. Non si può negare che sei ricca, dai. Elettra, vabbè, ma dai. Non ho fatto tempo fa, cioè. Ovviamente non l'ho pagata io. Non l'hai pagata tu, la tua famiglia, sì, le tue. Non è normale. Non è una colpa essere ricchi. Ma dai, tu sei mai stata con un operaio? Ecco, un operaio della Lamborghini, meraviglioso sarebbe. Siete ripetitivi, mi fate sempre le stesse domande. Lo può darsi, sì, può darsi, non siamo molto in forma magari con te ogni tanto. Non sei mai stata con un operaio della Lamborghini, mai, no? Mai. No. Senti, a proposito, mi dicono che vuoi realizzare a tutti i costi un calendario, o sbaglio? Sì. Ma ce la farai o no? Che calendario? Ma assolutamente sì. Ce la farai? Ma è vero che ti sei fatta rappresentare da Corona per questo calendario? No, non è vero. Non è vero. Allora, no, dovevo fare un calendario adesso. Per Playboy? Esatto. Però non so se avete visto la notizia che non vogliono più fare nudi. Sì. E tu volevi farlo nuda, naturalmente, il calendario? Non so, mi stavo... Un calendario? Ci sono tanti calendari. A casa di questa sua passione? Ma no, ma se ne frega. Cosa pensano a casa? Ma ero interessato a capire cosa pensano a casa di questa sua passione legittima, per il nudo, diciamo. Beh, c'è nudo e nudo, insomma. Direi che per le boy fa dei capolavori, nudi. Cioè. Però, quindi scusami, sono contenti. Elettra, torniamo una cosa. Torniamo sulla questione del calendario. Però... A me, io non è che faccio pettino le bambole, mi dicono che in realtà Corona voleva vendere la tua immagine a Playboy, è vero o no? È vero, dai, su. Ma io comunque ho un manager, per cui non... ma è vero che lui ha provato a venderti a Playboy, sì o no? Non lo so, io questo non sto dietro a... No, sarebbe curioso, perché uno che sta sostanzialmente in una comunità e poi vende o cerca di piazzare una ragazza, un artista, diciamo, no? Una showgirl presso una rivista. Insomma, cosa si possa fare? Ma comunque lasciamo perdere. Ma è il tuo agente? No. No, lui no. Ma è vero che voleva venderti il contratto? Io non preferisco sempre non parlare direttamente con le persone. Ma l'hai incontrato Corona o no? No. Non l'hai incontrato? Come, non sei andata là da lui in comunità, no? No. Mai incontrato? Mi sto confondendo. Senti, ma tu sei molto animalista, quanti animali hai in casa? Tantissimi. Cioè, quanti ne hai? Ho un sacco di cani. Sì? Mi piacciono a morire. Cavalli, cani, sì. Gatti, un po' di tutto. Ma quanti? Ci dormi anche coi cani, magari? Cioè, sei di quegli animalisti che proprio appunto se li portano anche... Ci sono quelli che dormono coi cani? Sì, io leggo oggi: i bimbi cresciuti coi gatti si ammalano di meno. Del mio amico Oscar Grazioli, volevo andare ai matti, ti giuro. Oscar Grazioli oggi sul giornale scrive: però, ma dai, i bimbi cresciuti coi gatti si ammalano di meno. Ma ragazzi, sì, ma non scherziamo. Perché prendono anticorpi, può essere. Ma certo. Non scherziamo. Incidenza più bassa di allergie e asma anche da può adulti. Essere. Le coccole rendono più sereni. Vabbè, questo in generale, d'accordo. Ma che bambini si ammalano di meno se crescono con i gatti? Su, David. Ma divento pazzo per queste cose, guarda, dai. Poi, ad esempio, devi sapere questo, i bambini rom sono quelli che si ammalano di meno. Perché? Perché vivono talmente nella sporcizia. I bambini rom si ammalano di meno? Ma che... Sì, ma questo non è che lo dico io, basta che lo puoi verificare facilmente. Perché vivono talmente nella sporcizia che sviluppano rispetto a altri... tali e tanti anticorpi che noi manco ci immaginiamo. Quindi hanno sviluppato delle cose che noi non abbiamo. Cioè degli anticorpi. Tu ti metteresti mai con un rom a lettera? Beh, questo non credo. Santa Maria. Ma non lo so. Santa Maria. Domande. Io ti ho sempre detto, anche l'ultima volta, ho già ribadito che siete ripetitivi, che l'amore non lo sai quando arriva. Vabbè, però tu una volta hai detto che non hai mai avuto amici poveri. Vabbè, ma quello, io, a parte il fatto che la stampa dice quello che vuole. Cioè, tu non hai mai detto che hai avuto amici poveri, non hai mai avuto amici poveri? L'hanno un po' rigirato, non è che io vado a dire ok, non ho. Però diciamo non frequenti poveri. Vabbè, i suoi ambienti, sai. Per esempio, quante persone hai a servizio a casa? Quante persone hai? Due, tre a servizio. Due, tre persone a servizio, perché non si può. Cioè, due, è una colpa mia, no? Ma assolutamente no, anzi, no, figuriamoci, assolutamente. Ma tu, se entrasse un ladro dentro casa tua, cosa faresti? Rispareresti? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma non è che c'è una pistola pure te, no? No, Dio, perché io sapevo, no, c'ho un meraviglioso. Una meravigliosa parete con dei grandissimi fucili appesi, però tu spareresti a un ladro che entra dentro casa tua? Cioè... No, Dio, bisogna vedere, però... Però è giusto sparare, è giusto difendersi, sparare... Secondo me, se tu ti trovi davanti uno che è malintenzionato, sì. I ladri di solito. I ladri però non vengono lì per dei convegni, diciamo, no, così. Guarda, non lo so, perché ci si deve, cioè, poi l'emozione. L'emozione, cioè, tu un emozionato, non c'è dubbio. Senti, però, Elettra, una cosa, ma il gruppo Lamborghini a chi appartiene? Appartiene a un gruppo più grande, no, signore Lamborghini? Lo sai tu, sì? Sì, lo so. Lo sai, so cazzi, So cazzi, la Volkswagen, so cazzi. Sì, lo so. Lo sai. Io non c'entro mica più niente. No, tu non c'entri niente, anzi no. Ma io non mi ricordo, ma quando è stata fondata la Lamborghini, non mi ricordo? Boh. te lo devi ricordare. Che anno è? 1000? Boh, non mi ricordo. 900? Che anno è? Elettra, dammi una mano. Dammi una mano, non lo so. 1900? Sì, sì, te la do. Dammi una mano, ti prego. Dammi una mano. Vediamo se lo sai. Mettimi una mano sul petto, ti prego. Mettimi una mano addosso. Ciao, ti ringrazio. Ciao, a presto. Ciao. Paolo, provincia di Trento. Dai, Paolo. Paolo. Matteo da Monza non c'è più. Antonino da Messina. Vai, Antonino. Pronto? Dimmi, Antonino. Ciao, presidente. Dimmi. Io mi voglio candidare per la tua lista a Zanzara. E i primi argomenti che dobbiamo discutere è droga e prostituzione. Vabbè, poi se vedremo. Si vota a Messina? No, non si vota. Allora, amico mio, che cazzo ti vuoi candidare? Se non si vota, non si vota. Si vota in 1600 comuni e speriamo di avere addirittura in un comune un sindaco della Zanzara. Dobbiamo trovare un comune piccolissimo. Un comune piccolissimo dove arriviamo a fare un sindaco della Zanzara sarebbe il top. Ci vediamo domani. Un comune piccolissimo. A domani, ciao. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.